ieri a passi, se il mio sogno s'avverasse. Un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria, e il plauso di renti tutta. Se Aida tornarmi là un ricinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. questa quella per me pari solo a andare tre intorno intorno mi vedo nel mio cuore l'impero non c'è ma meglio dura che ad altra beltà la costoro apparenza è quel dono di che il fato nel fiore alla vita so di questa mi torna gradita forse un'altra forse un'altra domanda sarà una La costanza tiranna del cuore detestiamo quel morbo crudele so chi vuole si servi fedele non morno se non v'è libertà due mariti in pieroso cuore degli amanti le smania Carino, a codardo, un tocco di spino, sempre punge, una qualche beltà, sì. Mi punge, una qualche beltà. Grazie al cuore, ma... e lucevan le stelle.

Thank you. tu m'appartieni, tu m'appartieni a me, a me. Oh.